Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Seconda favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Emanuela. La signora, che a lato sedeva dello ambasciatore, alla sua favola in cotal guisa diede principio. Favola seconda. Diego Spagnuolo compra gran quantità di galline da uno villano e, dovendo fare il pagamento, aggabba il villano e un frate carmelitano. Sì bella e sì dilettevole è stata la favola del signor ambasciatore raccontata, ch'io non penso aggiungere alla millesima parte di quella, ma per non esser contraria a quello che io proposi nel principio di questa notte, innanzi che il signor ambasciatore favoleggiare incominciasse, dironne una, la quale vi dimostrerà che la malizia dei spagnuoli supera e avanza quella dei villani. Nella Spagna trovasi una città detta Cordova, appresso la quale corre un dilettoso fiume nominato Bacco. Di questa nacque Diego, uomo astuto, ben disposto della vita e agli inganni tutto dedito. Costui, volendo fare una cena agli compagni suoi, e non avendo così il modo come egli desiderava, si immaginò di fare una berta ad uno contadino e a sue spese dar da cena agli amici suoi, il che gli venne fatto secondo il desiderio suo. Il spagnuolo, andatosene in piazza per comprar pollami, s'abbatté in uno villano che aveva gran quantità di galline, capponi e uova, e venne con esso lui a mercato, e promise dargli di tutti i pollami fiorini 4. E così il villano s'accontentò. Il spagnuolo, tolto un bastagio, mandògli subito a casa, ma non contò i danari al venditore, il quale pur sollecitava il spagnuolo che lo pagasse. Il spagnuolo diceva di non aver danari addosso, ma che andasse con esso lui fino al monasterio di Carmini, che ivi era un frate suo barba che gli darebbe immediate gli suoi danari. E con queste parole andarono ambidue in compagnia al detto monasterio. Era per avventura in chiesa un certo frate, al quale si confessavano alcune donne, a cui accostandosi il spagnuolo gli disse nell'orecchio queste parole: «Padre, questo villano che è venuto con esso meco è mio compare e ha certe eresie nel capo, e benché ei sia ricco e di buona famiglia, non ha però buon cervello e spesse volte cade nel male della brutta. Son già 3 anni che ei non s'ha confessato e ha qualche buon intervallo della sua sciocchezza, laonde, mosso io da carità e da fraterno amore, e per l'amicizia e comparatico che è tra noi, ho promesso alla sua moglie di far sì che si confesserà, e perché il buon nome e la buona fama di vostra santità corre per la città e per tutto il suo territorio, siamo venuti a vostra reverenzia, pregandola di somma grazia che per amor di Dio sia contenta di udirlo pazientemente e correggerlo». Il frate disse per allora essere alquanto occupato, ma che, espedite che avesse quelle donne, mostrandole con la mano, l'udirebbe molto volentieri, e chiamato il villano lo pregò che lo aspettasse un pochetto, promettendogli di espedirlo subito. Il villano, pensando che parlasse di danari, disse che l'aspetterebbe volentieri, e così l'astuto spagnuolo si partì, lasciando il villano schernito che aspettava in chiesa. Il frate, veramente ispedite le donne di confessare, chiamò a sé il villano per ridurlo alla fede, il quale andò subito e, scopertosi il capo, addimandava i suoi danari. Allora il frate comandò al villano che si inginocchiasse e, fattosi il segno della croce, dicesse il Pater Nostro. Il villano, veggendosi deluso e schernito, s'accese di sdegno e colera e, risguardando il cielo e bestemmiando, diceva tai parole: «Ai, misero me! Che male ho fatto io che da un spagnuolo son così crudelmente ingannato? Io non voglio confessarmi né comunicarmi, ma voglio i danari che m'hai promesso». Il buon frate, che era ignorante di tal cosa, correggendolo diceva: «Ben si dice che è il demonio e non sei in buon cervello», e, aperto il messale, come se avesse qualche malo spirito, cominciò a scongiurarlo. Il villano, che non poteva soffrire tai parole, gridando, dimandava gli danari che gli aveva promessi per lo spagnuolo, dicendo non esser né inspiritato né pazzo, ma da un ladro spagnuolo essergli tolta la sua povertà, e così piangendo ricercava aiuto da circostanti, e preso il cappuccio del frate diceva: «Mai non ti lascerò finché non mi dai gli miei danari». Il frate, vedendo questo, né potendo ripararsi dal villano, con lusinghevoli e dolci parole si scusava esser stato ingannato dal spagnuolo. Il villano all'incontro, tenendolo tuttavia saldo per lo cappuccio, gli diceva che egli per lui aveva promesso, dicendo: «Non mai hai tu promesso che subito mi espediresti?» Il frate diceva: «Ho promesso di confessarti!» E così, contrastando l'uno e l'altro, sopraggiunsero alcuni vecchi, i quali, vedendogli in lunga contenzione, fecero coscienza al frate e lo costrinsero a pagare il villano per il spagnuolo. Il spagnuolo, giotto, maledetto e tristo, fece con le galline e capponi una sontuosa cena agli amici suoi, dimostrandogli che la malizia spagnuola supera quella d'ogni gran villano. Fine della storia. Il signor ambasciatore, che attentamente aveva ascoltata la favola della gentil signora meravigliosamente raccontata, quella sommamente commendò, affermando lei con la sua aver superata la sua, il che tutti ad alta voce confermorono. Ma la signora, veggendosi dare il vanto, s'allegrò e, volto il suo caro viso verso l'ambasciatore, disse: «Nacque il mio padre di mia madre, e poi ella l'uccise, e morendei nacquio. E me, con miei fratelli e figli suoi, ella, finché crescemmo, ne nodrio. Vivemmo un tempo insieme, ma di noi gran parte ci troncò la vita un rio. Oh, quanta è ben nostra bontà infinita, che chi ci strugge al fin gli diamo vita!» Questo enimma non fu da alcuno inteso, ancor che sopra di esso fussero fatti lunghi commenti. Ma la signora, vedendo ognuno toccare il segno, disse: «Gentiluomini miei, il mio enimma altro non significa se non il furmento, il qual nasce dal furmento suo padre e dalla terra sua madre, la qual l'uccide. E uccidendolo nasce il furmento, che la terra nutrisce finché il cresce. Il furmento, unito insieme con gli fratelli, cioè con le granella, vivono insieme fino a tanto che il monaio gli tuol la vita macinandolo, e tanta è la sua bontà che dà vita a chi lo strugge». Fu sommamente lodata l'esposizione dell'enimma. Fine della seconda favola della 13ª notte. Registrazione di Emanuela.